Magari intanto dico due parole di presentazione. Innanzitutto, benvenuti, benvenute. Stasera. Eccola. Dico due parole. Innanzitutto, vorremmo dedicare questa serata, questo incontro, a un compagno, un amico, etnopsichiatra. Di nome Piero Coppo, che ha attraversato questo spazio diverse volte. Vabbè, come immagino sappiate, siete al centro sociale Conchetta, un posto che esiste ormai da più di 40 anni. Io e Carolina abbiamo fondato ormai qualche anno fa, era il 2018, la Società Psichedelica Italiana, come la definiamo? Un gruppo, direi, di persone che. Si interessa di questioni legate appunto all'uso e al consumo di sostanze psichedeliche e con un fine chiaramente di divulgazione, di dibattito. E questo gruppo l'abbiamo fondato sulla scia di quello che viene comunemente chiamato il Rinascimento psichedelico. E oggi non ci soffermeremo tanto su questa storia, su questa questione. Lascerei subito la parola a Carolina, che presenta il nostro ospite di stasera. Grazie Vittorio. Sì, allora questa sera inoltre si inserisce anche all'interno della cornice di questa rassegna di incontri, diciamo, a carattere divulgativo culturale, perché effettivamente psichedelici in Italia non si possono studiare, non se ne può fare ricerca, non se ne può fare pratica clinica, però di fatto se ne può parlare e dunque ingaggiamo un discorso in questa direzione. I dialoghi sulla soglia, appunto, si svolgono come dialoghi con, diciamo, maestri della soglia che, appunto, ci aiutano in qualche modo ad arrivare a questo confine, a questo spazio liminale. E Mario, che è l'ospite di questa sera, che, appunto, abbiamo chiamato come tecniche dell'altrove, la respirazione olotropica. Mario da 40 anni che si occupa di respirazione olotropica e studia gli stati non ordinari di coscienza a scopo di conoscenza, guarigione e ricerca spirituale. Si è certificato in respirazione olotropica e psicologia transpersonale con Stanislav Grof presso il Grof Transpersonal Training. Si è certificato come shamanic counselor con Mikal Smith presso il Crow's Nest Center for Shamanic Studies. Magari poi ci racconterai anche della tua formazione. E, si interessa alle modalità conoscitive di guarigione di alcuni popoli nativi e al rapporto tra queste, la respirazione olotropica e il counseling. E, quindi Mario questa sera ci farà una spiegazione, cioè una spiegazione, ci presenterà, ci introdurrà alla pratica di respirazione olotropica e anche poi, come dire, ci addentreremo in quello che è l'universo anche, diciamo, degli stati di coscienza anche esplorati attraverso queste cartografie della psiche, per esempio quella introdotta da Grof, ma anche oltre, quindi che ci avvicineranno un po' a quel filone della psicologia transpersonale. E quindi ti cedo la parola, Mario, ci sarà, Io ti cedo il posto. correderà anche un po' questa presentazione con delle immagini e dei video. Quindi preparo intanto. Ok, perfetto. Allora, lascio. Vuoi prendere il microfono? Come ma io se posso fare a meno se ci sentiamo. Ma che sì. Puoi prenderlo? Sì, le immagini le vediamo poi dopo. Innanzitutto parlerò, io mi avvicino perché non mi piace parlare da lontano alla gente, preferisco un setting di maggiore comunicazione, magari vi chiederò se è possibile di avvicinarvi un po', in modo da creare un maggiore contatto, una maggiore vicinanza tra tutti. Grazie. E questo rientra proprio anche nel set e nel setting del lavoro olotropico, cioè l'olotropica non parla alla testa, non parla qui alla mente, ma parla direttamente al cuore, non parla, sperimenta direttamente il cuore e quello che è il processo interiore di ciascuno di noi. Quindi l'olotropica, anche per questo è importante essere più vicini, proprio perché fa parte di questo tipo di spirito in cui ci addentriamo già nella comunicazione. Allora, un breve cenno su di cosa parlerò stasera, mi sono preso alcuni appunti. Beh, innanzitutto vi dirò cos'è l'olotropica, poi le dimensioni dell'esperienza per Groff, insomma quella che è la sua cartografia degli stati non ordinari di coscienza, in base alla sua, quella che è la sua ricerca psichedelica e psichiatrica, cioè scientifica, psichedelica scientifica, quando era legale. Poi, scusate, prendo gli occhiali. E poi parleremo brevemente della storia dell'olotropica, come si è formata l'olotropica, e poi quello che è il processo di guarigione dell'inner healer, cioè il processo di autoguarigione. L'olotropica non è una tecnica indotta dall'esterno, ma ciascuno fa emergere il proprio processo interiore di guarigione e di guarigione. E poi accenneremo, se ci sarà il tempo, anche un attimo di paragone tra tutta una serie di esperienze di stati non ordinari di coscienza, di ricerca interiore, che passano dalla ricerca psichedelica a quella che è l'esperienza olotropica, a quella che è l'esperienza di meditazione, a quella che è la trance, che sono un po' quelle che fanno parte indicativamente di quello che è il mio percorso esperienziale, per cui mi sento un briciolino nel mio piccolo di dire qualcosina. E poi magari qualche collegamento con il discorso sciamanico di recupero dell'anima e quelle che sono le estrazioni sciamaniche per chi ha un percorso, un'esperienza sciamanica. Quindi, che cos'è la respirazione olotropica? La respirazione olotropica è un'esperienza in cui le persone hanno l'occasione di accedere a memorie interiori di se stessi normalmente non accessibili. Ecco. È l'apertura appunto di quelle che sono le porte della percezione, per citare quel grande poeta che adesso l'amnesia, che si chiama... Grazie, ogni tanto le parole saltano. L'olotropica è una possibilità di entrare in profondità nel nostro corpo, nelle memorie corporee, nella nostra anima, nelle nostre emozioni, permette di fare venire in superficie delle cose di cui abbiamo perso memoria, che non sono soltanto biografiche, cioè legate alla nostra storia personale, ma possono essere collegate a quello che è il nostro processo di nascita, a quello che possiamo definire, che viene definito il trauma di nascita, per cui ci addentreremo poi più avanti meglio, con delle immagini in questo caso, e quelle che già Jung in passato, Roberto Saggioli, avevano definito come esperienze transpersonali, cioè collegate a quello che Jung chiama inconscio collettivo, cioè quella connessione tra un'esperienza interiore che va al di là di un'esperienza puramente individuale e soggettiva, ma che ci riconnette a tutto ciò che è una dimensione più vasta dell'universo. Se stiamo un attimo a riflettere sulla risalire a memorie più antiche, che sono transpersonali, cioè appartengono non solo più a noi, ma a noi come specie umana, a noi come memoria della vita, a noi come esperienze filogenetiche, cioè qualcosa che ci riconnette a qualcosa che non è il nostro io ordinario, ma qualcosa che va al di là. E qui c'è una connessione anche con quelle che sono molte tradizioni spirituali o mistiche di tante latitudini diverse. Ecco, allora, che cos'è la respirazione olotropica, per continuare questo discorso? È un metodo ma qui magari mescolo un po' i punti che vi ho annunciato, che deriva da quella che è la ricerca psichiatrica di Stanislav Grof, psichiatra praghese che negli anni 50 si trova a sperimentare la psicoterapia LSD in cliniche ufficiali, perché uno pensa all'LSD come qualcosa di illegale, di strada, come è avvenuto poi dopo la proibizione. In realtà l'LSD ha tutta una sua storia clinica di ricerca psichiatrica e di guarigione, che purtroppo è stata diventata illegale. Attualmente sta tornando in molti paesi più civili dell'Italia, dove la ricerca scientifica ha una maggiore dimensione di apertura, di scienza, la scienza è la ricerca, e in molti paesi che vanno dal Canada agli Stati Uniti, alla Svizzera, a Israele, che hanno questo tipo di apertura, si sta riaprendo questa, ma negli anni 50 era legale, e Stanislav Grof in questi anni sperimenta tutta una serie di guarigioni cliniche di persone con gravi problematiche psichiatriche, per poi trasferirsi nei primi anni 60 nei primi o secondi anni 60 negli Stati Uniti e continuare questa ricerca a Baltimora, dove ha continuato sia con processi di guarigione di persone psichiatriche, sia con accompagnamento di malati terminali di cancro. E qui c'è un bellissimo libro, L'incontro con la morte, pubblicato in italiano, ormai introvabile, però se qualcuno interessa forse lo trovate addirittura sul mio sito web da scaricare, non mi ricordo. Ecco, è veramente uno dei libri più commoventi del seguire i malati terminali di cancro. Quando lo leggevo mi veniva da quasi da piangere, tanto era profondo. Ecco, in seguito l'LSD è diventato illegale e Stanislav Grof si trova a Iselin in California, e la gente continuava a chiedergli: ma io vorrei provare l'LSD in modo protetto, e lui diceva: ma io sono uno scienziato, non è che vado contro la legge. E però ha pensato di elaborare questo metodo che si chiama respirazione olotropica, che estrapolava alcuni elementi del setting della psicoterapia LSD e senza l'utilizzo di farmaci, inducendo gli stati non ordinari di coscienza in altro modo. Perché questo? Lui aveva l'esperienza che nei momenti di grande abreazione, di catarsi, dei processi di psicoterapia LSD, le persone naturalmente, spontaneamente, iniziavano a iperventilare. E questo succede, questo è successo tra l'altro anche a me, mentre mi operavano una volta al naso, l'anestesia non era abbastanza forte, avevo un dolore pazzesco qui, e ho cominciato a iperventilare. L'iperventilazione in molti casi, la medicina attuale, e Grof la critica, il Grof come medico critica la medicina attuale, perché spesso in situazioni di stress le persone si mettono abitualmente a iperventilare, e questo tecnicamente la persona che accompagna le persone che iniziano a iperventilare naturalmente fossero in grado di accompagnare la medicina, i medici fossero in grado di non sopprimere questo, è un naturale processo di autoguarigione. Però non c'è la preparazione, per cui le stesse persone che accompagnano si spaventano. Ora, durante il setting di psicoterapia LSD, lui aveva visto che molte persone iniziavano a iperventilare. Poi aveva notato che poi molte somatizzazioni emergevano, molti nodi, cristallizzazioni somatiche collegate a traumi specifici venivano in superficie, invece di essere profondamente nascosti nella profondità dell'inconscio corporeo, venivano in superficie, e durante la psicoterapia LSD si poteva fare del lavoro sul corpo in modo da sciogliere queste cristallizzazioni, questi nodi che giacevano nell'inconscio del corpo. Quindi, primo elemento, l'iperventilazione. Secondo elemento, il lavoro sul corpo. Terzo elemento della respirazione olotropica è l'utilizzo della musica. A Baltimora Stanislav Grof collabora in questa clinica con Ellen Bonney, che era una musicoterapeuta, che poi lei ha dato via ad una scuola di musicoterapia. Anche lei, l'origine di questa scuola di musicoterapia deriva dalla psicoterapia LSD, ecco. E lei come musicoterapeuta aveva creato delle compilation e accompagnava questa psicoterapia LSD attraverso le sue musiche. Ora, da questo mix esperienziale nasce negli anni 70, nella seconda metà degli anni 70, quella che è la respirazione olotropica. Cioè chiedevano a Grof, come dicevo prima, vorrei fare l'esperienza LSD in modo protetto da una persona esperta come sei tu. E lui ovviamente non voleva finire in galera e ha elaborato questo sistema, respirazione olotropica, utilizzando una musica più profonda e più veloce, scusate, una respirazione più profonda e più veloce, un accompagnamento musicale e il lavoro sul corpo. Più aggiunge il disegno del mandala, che deriva dalla terapia junghiana, e poi l'unica parte verbale e poi la condivisione verbale. Alla fine del viaggio olotropico le persone sono invitate a disegnare su questo foglio con acquerelli, con matite colorate, con quello che voglio, con pastelli, aglio, cera, e poi la condivisione è un lavoro, l'espirazione olotropica è un lavoro sostanzialmente non verbale, tranne che nella parte finale, dove non si interpreta ma si valida l'esperienza delle persone. Cioè non c'è un terapeuta, non è una psicoterapia, non è un lavoro di interpretazione. Dalla psicologia umanistica in poi l'interpretazione tende un po' a passare in secondo piano, anzi addirittura a non essere più utilizzata, ma si induce un processo. Quello che è fondamentale nel lavoro olotropico è aprire le porte della percezione attraverso questi metodi naturali, per cui si lavora anche tranquillamente rispetto alla legge, e inducendo questo processo naturale di autoguarigione. Se questo tipo di respirazione più profondo, più veloce, accompagnato da musiche evocative, induce un viaggio in uno stato non ordinario di coscienza. Chi ha già esperienza di respirazione olotropica sa che questo può essere più profondo, meno profondo, e che magari può essere diverso da una volta, cioè no, senza magari, e che è diverso da una volta all'altra. Si può arrivare da esperienze di contatto, di sensazione corporea, fino ad avere proprie esperienze, direi, di quasi trance consapevole. Non un trance di possessione, è una trance in cui si entra veramente in una dimensione non ordinaria, in cui il nostro ego ordinario in qualche misura si ha l'occasione, per ego ordinario intendo soprattutto il lavoro di mentale, ecco, di essere in qualche misura bypassato. Qual è il protagonista di questo lavoro? Non è un terapeuta esterno. Il facilitatore olotropico è un facilitatore, non è un terapeuta. È una persona che semplicemente ha in passato già vissuto questo tipo di esperienza e non si spaventa di fronte a esperienze anche molto profonde, che possono essere anche molto profonde. Vi farò vedere alcune immagini, non ho messo le più forti in quello che ho portato, alcune sono veramente molto forti, soprattutto quando si rivive la propria nascita. Ecco, quindi attraverso questo genere di questo setting complesso di metodologia si può entrare in profondità nel proprio animo e nel proprio corpo, soprattutto. È molto spesso un'esperienza corporea ed emozionale. Qual è il protagonista, dicevo, di tutto questo? Il Grof l'ha chiamato inner healer, cioè guaritore interiore. Quindi il protagonista non è il facilitatore, non c'è un terapeuta esterno. Il facilitatore è una persona in grado di creare un setting di protezione, perché la prima cosa è un setting sicuro in cui le persone non facciano male a se stesse, perché si possono vivere esperienze anche molto profonde. Non facciano male a se stesse, non facciano male agli altri, ma Cioè, anche per esempio, se uno vive un'esperienza di rabbia, tutti portiamo dentro delle rabbie inconsce, profonde, e che ci pesano sulle nostre spalle, sulla nostra schiena, nel nostro addome, ci pesano nel nostro corpo. Ecco, l'esperienza olotropica può diventare una bellissima esperienza di trance in cui si rivivono esperienze di dolorose, ma anche statiche, e questo fardello che tutti noi ci portiamo dietro a modo di svuotarsi. Groff usava spesso la metafora svuotiamo i serbatoi di energia accumulata che ci portiamo dentro il nostro corpo, sulle nostre spalle, come degli zaini che appesantiscono la nostra vita. Quante volte ci svegliamo o durante la giornata ci sentiamo tristi e non capiamo l'origine. Ecco, perché abbiamo perso la memoria dell'origine di questo, per dire, oppure siamo incazzati e non sappiamo qual è l'origine di questo. Vabbè, l'ascoltarsi è già una buona cosa, ma spesso non basta stare in ascolto del nostro corpo. Degli strumenti che ci permettono di andare più a fondo possono essere rivelarsi molto utili. Ecco, una parola ancora sull'inner healer, sul guaritore interiore, è che l'inner healer è il guaritore ed è il centro del nostro processo di guarigione. Appunto, come accennavo un attimo fa, il facilitatore è colui che crea un setting e che ha esperienza adeguata perché l'ha vissuta su lui, oltre ad avere ovviamente una formazione teorica adeguata, di creare uno spazio protetto. Ecco, questo per dire, ho elaborato i due punti principali, la storia e cos'è la respirazione olotropica. Ecco, la cartografia degli stati di coscienza di Stanislav Grof. In questi decenni di esperienza psichedelica, Stanislav Grof assisteva a esperienze che uscivano fuori da quella che è la normale esperienza di uno psicoterapeuta. Cioè emergevano delle energie, delle forze e dei processi che uscivano fuori da una cartografia, chiamiamo freudiana, biografica. Cioè emergevano dei traumi o delle storie che erano da comprendere. E con tutta una serie di anni di esperienza lui ha elaborato questo tipo di cartografia. Che, ecco, a questo punto possiamo partire con un'immagine. Apro io, chi so dov'è. Dove sono? No, non so io dov'è. No, qua. Eccola qui. Ecco qui. Ok, speriamo che ci stia. Ecco, sì, allora. Le dimensioni dell'inconscio nella cartografia di Grof. Dunque, sono quattro livelli nella parte. Allora, qui non ci sta tutto, ovviamente, nell'immagine non avevo pensato. Comunque, allora, abbiamo l'esperienza astratta ed estetica, chi ha fatto esperienza di stati in ordine di coscienza con gli psichedelici o con... Scusate se devo parlare qua. Chi ha fatto esperienza con gli stati di coscienza psichedelici sa cosa si intende per esperienze astratte ed estetiche. E per Grof questo è il primo livello, il primo strato di esperienza che si può avere in stati non ordinari di coscienza riferito agli psichedelici. Il secondo livello di memorie, si tratta di memorie psicodinamiche collegate alla propria vita e collegate a quello che può essere stato i nostri problemi, che corrisponde un po' a quelle che sono le psicoterapie biografiche, Freud, Adler, eccetera. Quindi dalla nascita, dal dopo la nascita in poi. Ma per Grof le esperienze più incredibili che si rivelano in seconda battuta sono quelle perinatali, cioè l'esperienza del trauma della nascita. Vedete, qui abbiamo le quattro fasi del parto. Come e perché gli esseri umani siano la specie di mammiferi che più di altri hanno un trauma di nascita, questo rimane un po' una cosa molto particolare, diciamo forse misteriosa, dell'evoluzione della specie umana. Cioè la stazione retta ha comportato uno spostamento del bacino per il parto e nello stesso tempo c'è stato un ingrandimento del cranio. E questo crea che gli esseri umani abbiano un trauma di nascita molto diverso da quello che probabilmente non hanno neanche gli altri mammiferi. Allora, la prima matrice perinatale è... Dunque, scusate, qui non sono in ordine. Oltretutto l'ho fatto io, ma non è in ordine. Allora, questa qui che dove metto il primo... Il numero 3 è la prima matrice perinatale. Mi scuso dell'errore, ma lo vedo ora. Allora, la prima matrice perinatale è l'universo amniotico, dove il bambino, cioè il feto, vive in una dimensione acquatica, liquida, e se tutto è ok, la storia è positiva e beatifica. Diciamo, l'universo amniotico è piacevole e beatifico, se la madre sta bene. La seconda matrice perinatale è questa qui, dove metto il cursore. Ecco, sì, vedete. La seconda matrice perinatale è l'elemento terra, mentre il primo è l'elemento acqua, dove la cervice è ancora chiusa. Dovrebbero essere rovesciate, perché poi il feto è posto col testa in giù, però non è fondamentale rispetto al discorso che facciamo. La cervice è ancora chiusa, l'utero non ha una via d'uscita, ma il parto inizia, sta per iniziare, perché la composizione chimica e le prime contrazioni informano il bambino che qualcosa di irreversibile sta per crearsi. Allora, tutto questo noi da adulti difficilmente ce lo ricordiamo, ma in stati non ordinari di coscienza memorie di questo genere possono venire in superficie. La seconda matrice perinatale è senza via d'uscita, cioè si avverte che qualcosa di irreversibile sta per venire, non si sa, il feto non sa dove andrà a finire, e su questo Grof faceva spesso dei paralleli tra il processo di nascita e il processo di morte. Quando noi lasceremo questo abito terrestre, non sappiamo dove andremo a finire, quale sarà il processo. Ecco, e qui il bambino si rende conto che qualcosa sta succedendo e lascia uno spazio che ha conosciuto. Terza matrice perinatale, l'elemento è fuoco e il feto viene, diciamo pure, per usare un eccesso, fortemente schiacciato, non dico stritolato, ma ci si avvicina, perché Grof scrive anche nei suoi libri, non lo ricordo a memoria, quanti chili di pressione un bambino subisce nel venire al mondo, nell'essere partorito. Infatti tutti noi abbiamo presente di quando abbiamo visto dei bambini appena nati che hanno dei segni sulla testa o nel corpo, a volte hanno delle slogature, comunque la compressione della testa è spesso visibile nei bambini appena nati. Ecco, questo si chiama, Grof l'ha chiamato terza matrice perinatale o lotta di morte e rinascita. l'elemento è fuoco, e la quarta matrice invece è questa qui, è quella a destra, e qui il bambino viene, è l'elemento aria, e il bambino viene in superficie, cioè viene nell'aria, so, esce e arriva alla luce. E poi il quarto livello di esperienza sono quelle più misteriose, sono quelle transpersonali, che è un ampio ventaglio di esperienze, come scrivo qua sotto, che trascendono i concetti di tempo e spazio, superano la percezione di io racchiuso nella pelle, come diceva Alan Watts, possono esperienze filogenetiche che ci ricollegano a memorie dei nostri antenati, oppure addirittura a memorie di specie precedenti, oppure, proprio come accennavo all'inizio, ci connettono con tutta l'esperienza della vita, cosa che tutte le popolazioni, tutte o quasi tutte le popolazioni della Terra rappresentano con un archetipo che è l'albero della vita. E lo troviamo in quasi tutte le scritture e le tradizioni di tutte le popolazioni della Terra, cioè che tutti gli esseri umani, scusate, tutti gli esseri viventi sono connessi, perché appartengono a quest'unica grande esperienza, che è l'esperienza misteriosa della vita su questo pianeta, forse anche fuori da questo pianeta. Ecco, questo è un po' quanto la cartografia di Grof. Quindi, per ripetere, quattro livelli: l'esperienza astratta ed estetica, quelle biografiche, quelle perinatali e quelle transpersonali. Ora passiamo a qualche immagine di immagini collegate alle esperienze di matrici perinatali. Qui abbiamo la prima matrice perinatale. Ci riferiamo all'utero cosmico, cioè la prima matrice in cui il feto galleggia nel liquido amniotico. E questo è un disegno di Grof, che tra l'altro lui ha fatto il medico, ha fatto lo psichiatra, ma la sua aspirazione da giovane era quella di fare l'artista. Poi i genitori l'hanno spinto a studiare medicina e lui ha studiato medicina, ma il suo talento artistico viene ancora fuori. Ecco, vedete, questo è la prima matrice perinatale, il bambino nell'utero, nel liquido amniotico, collegato, come un'esperienza mistico-cosmica, collegato alla galassia. È una galassia che ha forma di seno. Altra immagine collegata alla prima matrice perinatale, la dimensione acquatica. Queste sono collegate a più esperienze dei primi tempi di Grof, collegate alle esperienze di LSD. E qui passiamo invece ad una prima esperienza, ad una prima matrice perinatale invece tossica, in cui la madre è ammalata o intossicata e il bambino vive la dimensione uterina come una dimensione mostruosa. Vedete il pulcino che è quasi morto. E questo è l'inizio della seconda matrice. Qui Grof si riferiva all'inizio vero e proprio del parto, la seconda matrice, quando l'utero comincia ad avere le prime contrazioni, la chimica dell'utero comincia a cambiare e qualcosa di ineluttabile avviene. Vedete questo vortice? Questo vortice è un risucchio. Ecco, una sensazione di qualcosa di catastrofico, di immanente che sta per arrivare. E qui c'è pure un riferimento letterario che faceva Grof, ed è quello della discesa nel maelstrom di Alan Watts, Poe, grazie, ecco, Edgar Allan Poe. Seconda matrice, inizio, qualcosa di ineluttabile che interrompe l'equilibrio normalmente, quasi sempre, ma non sempre, beatifico della prima matrice. Ci sono anche dei disegni della prima matrice in cui c'è il bambino, il feto, disegnato come Buddha. Ora passiamo ancora sempre alla seconda matrice, che è forse la più problematica fra tutte. Qui, e anche qui ci riferiamo un po' alla letteratura, un po' a quella che è la dimensione della seconda matrice, la dimensione psichicamente problematica della seconda matrice, in cui, essendo l'utero chiuso, non si vede via d'uscita, infatti no exit. E qui si riferisce a Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre risulta, quando ha scritto La nausea, risulta che avesse fatto un'esperienza con la mescalina finita piuttosto in modo piuttosto difficile, in cui aveva rivissuto la sua seconda matrice senza riuscire a risolverla. E quindi gran parte poi del pensiero di Jean-Paul Sartre è stato influenzato da questa problematica non risolta. Quindi chi ha letto La nausea ricorda il pessimismo cosmico della nausea, ecco. È il pessimismo cosmico della nausea, io l'ho letto che avevo avuto 18-20 anni, è toccante, incredibile, e me lo sono poi ritrovato quando Groff ne parlava e ho detto, ah ok, cioè, quella non è la... da giovane mi aveva anche un po' influenzato questo pessimismo cosmico. E poi se la ridimensioni come uno stadio di un processo psichico che può essere superato e può evolversi in meglio, beh, cavolo, cambia parecchio. No? E quindi qui ci sono questi riferimenti letterari a Jean-Paul Sartre, e quando Groff parlava della seconda matrice diceva sempre compression, depression, starvation, cioè compressione, perché l'utero è chiuso, no exit, depressione, perché tutta la nostra vita, quando vediamo che non c'è una via d'uscita, non c'è una via d'uscita, tendenzialmente non ne siamo felici finché non la via d'uscita non la troviamo. Ma questo ha un eco maggiore quando noi viene amplificata, quando la nostra seconda matrice è particolarmente difficile. Ci sono persone che hanno, e questo è soggettivo, dipende dal tipo di nascita che noi abbiamo avuto. Ci sono persone che hanno una seconda matrice più marcata e persone che ce l'hanno fortunatamente un po' meno difficile. E per Groff la depressione unipolare in molti casi ha una radice che non è solo biografica, ma può essere collegata proprio al processo, al trauma di nascita. Ecco un altro archetipo, insomma, l'immagine è un po' piccola, però ve la vedete tutti, qui è un campo di concentramento, ecco, tutto ciò che nella cultura umana e senza via d'uscita, compresi le prigioni, i campi di concentramento, sono collegati archetipalmente a quella che è l'esperienza della seconda matrice per Groff. Mentre qui passiamo a... Ah sì, piccolissimo, caos. Vedo se riesco a ingrandirlo un po'. È scurissimo anche. È scuro, ci posso far niente. Nel monitor qui lo vedo benissimo, ma lì non si vede. Comunque è un'immagine, direi, infernale di Bosch. Ed è collegato alla terza matrice. La terza matrice è un passaggio della nascita, l'abbiamo visto prima, in cui il feto scorre nel canale della nascita e viene fortemente compresso. L'elemento è il fuoco e madre e figlio si imprimono reciprocamente dolore, ed è molto conosciuto il fatto che le madri partoriscono con dolore, lo dice anche la Bibbia e probabilmente affermato in molte culture. Mentre è meno conosciuta nella nostra cultura quella che è la sofferenza infantile, che tutti noi ci portiamo dietro. Ecco qui un altro disegno, spero che sia un po' più grande. Sì, questo è un po' più grande. Ecco. Ecco, qui possiamo, questo è un disegno post terapia LSD ancora, siamo nella fase ancora LSD del lavoro di Grof, di una terza matrice. Vedete la compressione del feto e la difficoltà, la sofferenza, insomma. Che sono elementi che con questo genere di lavoro possono avvenire in superficie e gestiti adeguatamente in modo protetto possono alleggerire il nostro bagaglio e il nostro fardello di sofferenza sotterranea di cui noi non siamo consapevoli. Poi continuiamo, ecco ancora un altro disegno, di nuovo siamo sempre nella fase psicoterapia LSD, questo gli uccelli che sono, quelle raccoltazioni uterine sono rappresentate qui come attacco di uccelli rapaci giganti. E siamo sempre nella terza matrice, l'elemento fuoco l'ho rappresentato per rendere l'idea del... E poi, ecco, qui c'è un'altra esperienza di psicoterapia LSD di cui Grof ci aveva raccontato, di Harriet Frenz, che è una giovane, giovane negli anni 60 californiana, che era un artista che aveva descritto le sue esperienze LSD. E qui siamo di nuovo in un'esperienza, quella sciamanica di smembramento, vedete, la sua sensazione corporea era quella di essere diventato uno scheletro, che corrisponde ad un processo di terza matrice perinatale. E qui, tanto per continuare con l'arte, più o meno contemporanea, questo è un disegno sempre connesso alla terza matrice perinatale di quel artista svizzero, Giger, recentemente scomparso, anche lui legato parecchio all'esperienza LSD. Tra l'altro il disegnatore di... Grazie, ecco. Grof ci aveva riempito di immagini di Giger, lo conosceva personalmente. E quando ho fatto la formazione c'era anche la compagna di Giger che era nel team di formatori. E finalmente arriviamo all'esperienza bella e paradisiaca, che è la quarta matrice perinatale, in cui se non siamo ospedalizzati e la mamma ci vuole bene e ci accoglie e ci allatta e ci nutre e ci coccola, ecco che l'esperienza drammatica e difficile della nascita umana può venire molto alleggerita ed integrata. Ecco la quarta matrice, molto difficile se anche la quarta matrice ospedalizzata, ti separano dalla madre, ti tagliano il cordone ombelicale appena sei nato che pulsa ancora, ecco come spesso avviene negli ospedali. Ho presente alla nascita di mio figlio, zac, gli hanno tagliato subito il cordone ombelicale, non credo che sia stato piacevole per lui non se lo ricorda, ma io sì. Oggi non andrei più lì, però allora a quell'epoca io non avevo questa consapevolezza. Ecco la quarta matrice, un'altra bella immagine che rappresenta la quarta matrice, l'araba fenice, la fenice che dalle ceneri risorge, ecco, un grande bellezza di speranza. Ecco, quindi vi ho un po' parlato di quella che è la cartografia di Grof, i quattro stati dell'esperienza psichedelica, che poi con l'olotropica lui parlava solo più di tre, l'esperienza biografica, cioè l'esperienza olotropica non essendo più un'esperienza psichedelica, tutte le esperienze astratte ed estetiche vengono un pochino a cadere, quelle erano collegate più all'esperienza psichedelica con LSD. Diciamo nell'esperienza olotropica La cartografia olotropica di Grof è quella delle esperienze biografiche, cioè delle memorie che possono venire in superficie, quelle biografiche, quelle di nascita e quelle transpersonali. Ecco. Per transpersonali si intende anche esperienze di tipo sciamaniche, di entrare in altre dimensioni, in altri mondi. È un ventaglio molto vasto di esperienze. Ecco. Lo stesso Jung descrive quando parla di inconscio collettivo. Ecco, possiamo dire due parole su quella che, se vi interessa, se non ci sono domande, se no potrei parlare di... Ma sì, vi faccio un esempio, vi faccio vedere un filmato di una popolazione che io amo molto e che è quasi completamente scomparsa sulla faccia della Terra, che sono i San, i Kung. Sono i meglio conosciuti i Boshimani, che sono una delle etnie più antiche del pianeta sul pianeta di umane, di Homo sapiens, da cui si sono dipartite le attuali popolazioni di bianchi, di neri, di asiatici. Ecco, loro abitano nell'Africa australe, sono stati scacciati da nord dai Bantu, e sono ridotti nel deserto del Scalari. A sud dal 1600 i Boeri sono risaliti e loro si sono praticamente sono rimasti un po' in Botswana, dove sono ancora attualmente perseguitati, o lo erano fino a poco fa, in Namibia, dove sono una minoranza, e in Sudafrica. Ecco, i San fanno questa bellissima cerimonia che a me ricorda molto la respirazione olotropica, o almeno in parte la respirazione olotropica, in cui loro respirano, e lo vedremo, entrano in una sorta di trance, loro camminano. Respirazione olotropica si sta sul materasso, ci si può muovere ma si sta sul materasso. La differenza, e poi c'è il sound, c'è la musica che loro stessi producono. Sono 4 minuti, e fate attenzione, a un certo punto, verso la fine, vedete proprio questi uomini che camminano, marciando, e vedete l'addome, proprio il respiro. Antico a fine anni 50. Nel 66 l'hanno pubblicato, ma è più antico. Cioè la Bibbia. Traduciamo. No, ok. Scusate, qui l'ho saltato. Dance of the Nwankwe Kong is a common occurrence. The people begin in an easy mood. More join later as the fervor of the dance increases. They dance usually at night and often all night long. The people take pleasure in the music and the dancing and admire excellent performance. Although they are engaged in a serious ceremony to heal the sick and ward off evil, they are not solemn or in awe. The people act together for their well-being. It is the woman's role to clap and sing, sitting around the dance fire. A woman may dance a turn or two if the mood is upon her, always with dignified bearing. The men, singing also, dance around the women, first in one direction and then the other. Looked at one way, the purpose of the singing and dancing is to make sound. In other words, to produce music, the special medicine music of these ceremonies, The songs have no words, but they have names. Rain, sun, honey, giraffe, eland, all strong things that Kong say. During the night, they sing the songs over and over, pausing to rest briefly, starting up again with vigor. The women's clapping hands and the men's stamping feet are the accompanying percussion instruments. Some of the men beat out the basic rhythm. Others put two and three light steps onto the basic beat. The Kung believe that the songs are given by the great god and that they have medicine, ngum, a mystical potency capable of curing, dangerous if too strong. Ngum exists in the music and the dance fire, but the most important deposit is in the medicine men, who are called Ngunkausi, or owners of medicine. Among the Kung, almost all men become medicine men and practice at some time in their lives. In the atmosphere of the dance, their medicine becomes hot, the Kung say. The medicine men begin to perform their curing ritual. They may already be in light trance by this time. Se ci sono domande, altrimenti potrei dire due cose sulla la connessione o la differenza tra alcune esperienze di stati non ordinari di coscienza, nella mia esperienza, tra esperienza psichedelica, quella di meditazione di consapevolezza zen e vipassana che ho praticato nella mia vita, l'olotropica e l'esperienza sciamanica. Quindi io direi che tutte queste esperienze hanno un elemento in comune e molte differenze. L'elemento che accomuna questi tipi di esperienze sono esperienze che escono fuori da quello che è l'io ordinario racchiuso nella pelle. Se noi meditiamo, facciamo un ritiro di meditazione, in qualche misura usciamo da quella che è un'esperienza di stare profondamente immersi nei nostri pensieri e considerare che il nostro pensiero sia la nostra realtà. In realtà può emergere un elemento di consapevolezza che non corrisponde ai nostri pensieri. Questo è un po' l'elemento per me significativo di un cospicuo tempo dedicato nella mia vita a quella che è stata la meditazione buddista di consapevolezza. L'esperienza psichedelica, di nuovo, è un'esperienza che in qualche misura ci porta fuori da quella che è la nostra esperienza ordinaria e ci apre a dimensioni, a disidentificarci da quella che è la nostra mente ordinaria, ad ampliare l'orizzonte esperienziale, e mi sta bene su questo la cartografia di Grof. Esperienza che ci permette di accedere di più a qualcosa che ad avvicinarci, approssimarci alla nostra identità, ad avvicinarci, ad andare in direzione di quella che può essere una nostra identità più profonda. È un processo che dura una vita e che forse non basta neanche una vita. L'esperienza olotropica è di nuovo un'esperienza che io in qualche misura a me ha permesso di entrare in profondità con dimensioni interiori, stati d'animo e elementi miei da guarire che in qualche misura mi ha cambiato la vita. Quindi è l'esperienza sciamanica, di nuovo, l'esperienza di viaggio sciamanico, parlo col tamburo, non quelle con le sostanze, le piante maestre, che sono ancora un altro tipo di categoria. L'esperienza del viaggio sciamanico al tamburo si avvicina a certe esperienze di trance, consapevole in cui entri in dimensioni non ordinarie. E questo direi che è molto in sintesi un po' quello che è un po' le esperienze. Io valuto come interessanti tutti questi tipi di esperienze perché, come diceva Stanislav Grof quando era mio insegnante, l'esperienza della morte è uno stato di coscienza non ordinario e nella vita ha senso sperimentare gli stati di coscienza non ordinari anche in base proprio al fatto che tutti noi prima o poi ce ne dobbiamo andare e questo ci aiuta, ci aiuterà probabilmente anche ad affrontare i nostri ultimi momenti. Ecco, posso aggiungere ancora una cosa, una similitudine rispetto alle esperienze sciamaniche e quelle olotropiche, sono quando si parla di recupero dell'anima nello sciamanismo, c'è quel bellissimo libro di recupero dell'anima di, ecco, qui un'altra amnesia, Sandra Ingerman, ecco. Ecco, con l'esperienza olotropica spesso si recuperano frammenti di anima nostra che sono stati persi, persi nelle profondità dell'inconscio corporeo, nelle profondità delle nostri traumi emozionali bloccati e cristallizzati, e l'esperienza olotropica permette di recuperare frammenti di anima che in qualche misura noi abbiamo perso. E lo stesso discorso vale per le estrazioni sciamaniche, chi ha esperienza, ovviamente qui mi riferisco a chi sa di cosa parlo, le estrazioni sciamaniche, beh, nel lavoro olotropico spesso si fanno, o almeno io trovo una grandissima analogia, quando si fa un lavoro sul corpo, quando emergono sintomi corporei, blocchi nel corpo, cristallizzazioni che erano nell'inconscio corporeo ma vengono in superficie durante un'esperienza olotropica, e beh, lì si lavora sul corpo, un lavoro diretto sul corpo di scioglimento, e quello, quello trovo una grandissima analogia con l'estrazione sciamanica. E con questo vi saluto, se ci sono domande volentieri, vi ringrazio per la vostra attenzione, so che sono argomenti non facili. Anche io avrei una domanda. Ok. Ah, se qualcuno vuole dei volantini del mio sito web o del mio prossimo seminario in Brianza, sono qui. Ok, poi li distribuiamo. Vabbè, forse sempre a partire da questo video in cui si vedeva per un attimo il momento in cui, a parte che poi nel testo, grazie, questa voce poi diceva appunto che ognuno diventa il guaritore, anche ognuno diventa guaritore. E la mia domanda è rispetto alla pratica di respirazione olotropica, non so appunto effettivamente se ci siano più modelli, ma per esempio che so che si attua per esempio a coppie in cui c'è una persona che fa il sitter e una persona che fa il breather e poi effettivamente si scambiano, quindi volevo sapere un attimino effettivamente che cambia un po' il modello, il paradigma anche della cura, il fatto di facilitare, no? Per cui non c'è un esperto conoscitore, ma c'è una figura che lucidamente facilita quelli che sono i processi che occorrono. E quindi non so se puoi dire qualche cosina di più rispetto alla pratica. Allora, non confondiamo il sitter con il facilitatore. Il facilitatore è colui che ha un'esperienza su di sé e anche teorica, e ha fatto anni di formazione, anni di esperienza su di sé ed è in grado di creare uno spazio protetto e di guidare le persone a vivere il loro processo. Non glielo induce lui, non fa domande come fa uno psicoterapeuta, semplicemente insegna la tecnica, crea uno spazio protetto ed è in grado di accompagnare anche in processi difficili o dolorosi. Più facile in quelli statici, non solo quelli dolorosi. Spesso possono essere dolorosi e statici, ma molto spesso un processo doloroso diventa anche un processo estatico, perché si è sempre consapevoli e ci si rende conto di quando una parte dolorosa viene in superficie e si scioglie, ed è un misto di dolore e di estasi che si incrociano in questo momento. Quindi questo è il facilitatore. Il breather è colui che respira, che vive direttamente l'esperienza, che fa questo viaggio olotropico, comincia a respirare in modo più profondo e più veloce, si inizia con un rilassamento guidato, alla fine del rilassamento il facilitatore invita le persone a respirare in modo più profondo e più veloce e ad esprimere, a non restare incollati sul materasso, ma ad esprimere con la voce nell'ambiente, tutta l'espressione fa parte del setting, le urla, le grida, i pianti, le risa, tutto ciò che si esprime attraverso, non le parole razionali, ma tutto ciò che si esprime in termini emozionali o di espressione corporea, anche non verbale, fanno parte del setting. Questo è il lavoro del breather. Alla fine del rilassamento si invitano le persone a respirare in modo più profondo e più veloce. E in pochi istanti parte una musica di cui vi ho parlato poco, ed è una musica particolarmente evocativa. Sono 4-5 fasi di musica, inizia con una musica da trance, di percussioni, tribale spesso, ma non necessariamente tribale. Comunque una musica che smuove le budella. E poi inizia una fase di musiche più drammatiche, e poi una fase di musiche più emozionali, di apertura del cuore. Si continua con musiche meditative e si finisce il viaggio spesso con musiche, con suoni della natura, cascate, scorrimento d'acqua, versi degli animali, delle rane, che ne so, delle balene. Ecco, questo. Il sitter, mi chiedevi. Il sitter è colui che ci si lavora in binomi, in olotropica, grazie, e il sitter è colui che fa da babysitter, cioè non interviene, chi respira alla sua bolla non è una persona che interviene direttamente, ma ha un'accoglienza passiva, come si può avere per un bambino di 3 o 4 mesi. Gli si dà da bere se ha sete, lo si copre se ha freddo, lo si accompagna fino alla porta del bagno se deve fare pipì e lo si aspetta alla fine si lavora con gli occhi chiusi ovviamente, con una mascherina o con gli occhi chiusi, e poi lo riaccompagna sul materasso e lo ricopre. È un'attività di protezione quella del sitter, ma non è solo un'attività di protezione. Se tu sei di fianco ad una persona che vive un processo emozionale profondo e lo accogli, lo accudisci, impari a rispettare i processi emozionali profondi della persona che stai accudendo, ed è molto formativo, ma non solo per la persona, ma anche per te, perché impari a rispettare i suoi processi, a rispettare quello che è il suo processo senza intervenire, e poi capisci che anche come devi rispettare il processo della persona che ti sta di fianco, impari a rispettare quello che è il tuo processo, ad accogliere le tue emozioni. Se sei triste e piangere, o se sei allegro e ridi, accogliere fino in fondo. In olotropica uno delle massime che si dicono e che si ripetono è: si sta con quello che c'è. Ecco. E poi altra cosa, vabbè, qui esce fuori dal discorso sitter e facilitatore, è l'espressione. Una cosa che non ho detto: in olotropica la manifestazione del sintomo è vista come parte del processo di guarigione, quindi tutto ciò che è sintomo, scusate la brutta parola, tra virgolette, tutto ciò che esce fuori è parte di un processo di guarigione. Ecco, non so se ho risposto adeguatamente alla tua domanda. Ciao, io ho due domande. Allora, una è se pensi che sia possibile che le esperienze, quelle 4 fasi, possano in un qualche modo spillare, cioè entrare nei sogni, nel senso che vedendole mi è venuto in mente due dei miei primi ricordi che sembravano un po', diciamo, mimare la terza fase in un qualche modo. Quindi volevo capire se poteva essere un collegamento di questo tipo. E seconda domanda è se secondo te è possibile che fare l'esperienza olotropica, magari cioè chiaramente dopo una formazione, comunque dopo averne esperienza la prima volta con altre persone, anche farla da soli. Allora, noi portiamo dentro di noi un mucchio di memorie e è assolutamente possibile che nei sogni si manifestino o in altri momenti delle cose. Cioè la nostra mente ha delle... parlo della mente in senso positivo, non la mente quella che... quella in cui ci incateniamo nei pensieri, no? La nostra, diciamo, le nostre memorie spesso hanno modo di manifestarsi in modo, e nei sogni in modo particolare. Tutti noi abbiamo fatto dei sogni banali, che a volte troviamo banali, e a volte dei sogni pazzeschi, no? Ecco, nei sogni a maggior ragione si manifestano parti di noi che altrimenti non hanno modo di manifestarsi. Per quanto riguarda fare l'olotropica da soli, l'olotropica è fatta in questo modo. È fatta guidata da una persona che ha sufficientemente esperienza per proteggerti. Se tu la fai da solo, non è più olotropica, è un'altra cosa, chiama l'autosperimentazione. Ecco. Groff era una frequente domanda che gli si faceva e lui diceva: se ti succede qualcosa che hai bisogno di avere qualcuno di fianco, un'esperienza forte, lui la sconsigliava. Tuttavia, per quello che ho capito io, se si fa da soli un'esperienza di questo genere, che non è più olotropica, non si riesce mai ad andare tanto in profondità, perché non ti senti abbastanza protetto. Poi non la condanno e non la consiglio, ecco. È un'altra cosa. Qualcun altro? Ma se vuoi essere registrato. Va bene. Nella terza fase, quella del fuoco, dove tu hai detto quando la madre... cioè il bambino soffre proprio questo peso, no? Quando esce, e quindi noi ce lo ricordiamo. Poi hai anche detto prima, non avrei mai fatto staccare dal cordone ombelicale quando è uscito invece mio figlio oggi. Mi chiedo, ma oggi invece che ci sono tanti parti cesari, cioè in questo caso, quindi sicuramente c'è un distacco estremo da quello che appunto... quando esce nell'aria, e quindi questo è sicuro, perché poi lei è addormentata, cioè sì, lo vede, ma insomma il corpo non è... ma poi, e quindi però c'è una tesi di quando esce però in maniera, ok, non naturale. Perfetto. Allora, il parto cesareo, ci sono... non c'è un parto cesareo uguale all'altro, oppure ci sono almeno due tipologie di parto cesareo: quello programmato, in cui viene deciso il tal giorno tu passi dalla prima matrice alla quarta matrice, salti la seconda e la terza. Non so darti una risposta precisa, posso dirti probabilmente chi passa da una prima ad una quarta matrice ha una, si dice che abbia un accesso più facile a, cioè c'è positivo e negativo. Si dice che, mi pare sia scritto nei libri di Groff, non ricordo più esattamente, però chi passa da una prima a una quarta matrice dovrebbe avere un accesso più facile al transpersonale, alle dimensioni ma ha più difficoltà proprio perché non ha l'esperienza difficile della seconda e della terza matrice, in cui nella terza matrice il bambino non è passivo come nella seconda, ma collabora attivamente alla nascita, secondo Grof. Quindi c'è un'esperienza, diciamo, di autoaffermazione, diciamo di volitiva, se vogliamo, no? Che gli manca. Ma questo è poi ancora relativo, perché poi questi elementi appartengono a tutta la specie, a mio parere, questa è una risposta mia personale, tutti noi portiamo a livello di inconscio collettivo degli elementi che appartengono a tutta la specie umana. Quindi la seconda, la terza matrice collettiva, tutti ce la portiamo dentro. Ecco, un'altra cosa da aggiungere è l'utilizzo dei farmaci durante la nascita. Ecco, pare che, Grof l'ha scritto da qualche parte, ecco, questo possa aiutare a diventare dipendenti da farmaci poi adulti, in modo particolare da psicofarmaci. Ecco, questo l'ho letto da qualche parte, non so più su quale libro di Grof, però ecco. Diverso ancora invece è il caso di un parto cesareo per parto iniziato, per cui metti durante una seconda o una terza matrice difficile ci sono delle difficoltà, allora in questo caso c'è un pezzo di seconda o un pezzo di terza matrice. Ecco, quindi un cesareo non è uguale ad un altro. Ecco. Prego. Ancora qualche domanda? Io ho una domanda sciocca, sarà più da fare. Ma se per caso, appunto, come mai durante una domanda banale, come mai durante questa respirazione avviene questo discorso delle mani che non si riesce, che quando poi uno riemerge non riesce? Come mai si verifica la tetania? Allora, la tetania è un verifica nelle prime esperienze di iperventilazione. Non più avanti, più si pratica l'iperventilazione, la tetania avviene in metodi che utilizzano l'iperventilazione creano tetania. Non è una domanda banale quella che fai, è una domanda molto interessante. Che cos'è che crea la tetania? La tetania non è niente altro che una pulizia di blocchi somatici che noi ci portiamo dentro. Cristallizzazioni somatiche, tant'è che si manifesta le prime volte, le prime respirazioni, e poi non si manifesta più. E si manifesta le prime volte in cui si fa iperventilazione, soprattutto se non si esprime. La tetania in qualche misura è un modo di far emergere un blocco somatico che spesso abbiamo nelle mani, ma a volte in tutto l'arto superiore, a volte negli arti inferiori, a volte alla mandibola, a volte in tutto il corpo addirittura. Sono delle cristallizzazioni che tendono a sciogliersi, e in modo particolare questo avviene se noi troviamo la valvola espressiva che sottende la tetania. Cioè, io non ho mai visto una persona che respira le prime volte, che iperventila le prime volte, se questa esprime le sue emozioni o in qualche misura esprime il corpo. Quindi la tetania è collegata a una modalità contratta emozionale o corporea. Questo te lo dico con 29 anni di percorso olotropico alle spalle. Quindi ho abbastanza esperienza per averlo verificato più e più volte. Sì, non penso che i San, che abbiamo visto che iperventilano anche loro, soffrano, abbiano questa tetania, a parte che fanno queste cerimonie magari una volta al mese, ma non penso che ce l'abbiano neanche, sarebbe bello andarglielo a chiedere, ma non penso che abbiano questa sintomatologia, proprio perché la loro modalità è molto più dinamica che non quello olotropico in cui tutto sommato si sta su un materasso o si esce anche. Ecco, io invito spesso a non restare incollati sul materasso, e proprio nel weekend scorso ho sperimentato una modalità dinamica ispirata anche ai sang, in cui invece di stare sul materasso, c'era il materasso, ma si marciava, si camminava proprio respirando ed esprimendo in modo più dinamico di quello che non si fa normalmente. Io sono un po' uno sperimentatore anche, e quindi ho provato questa cosa, e infatti ulteriore prova che questo aiuta. Altre domande? Ok, io ne ho una a partire da un testo che ho trovato sul tuo sito, in cui effettivamente metti a disposizione alcuni PDF di alcuni testi di Groff altrimenti introvabili, comunque pubblicati da Redbook forse. E qui dice, proprio all'incipit dice: ogni crisi personale, per quanto profonda, turbolenta e traumatizzante possa essere, reca con sé un elemento positivo. Indica la via a un possibile cambiamento interiore, alla scoperta di nuove potenzialità e nuovi valori. Purtroppo, la psichiatria tradizionale non riconosce l'apporto positivo, vivificante di queste crisi, le considera come patologie e spesso le cura con farmaci che spingono nell'oscurità un materiale psicologico destinato per sua natura a emergere in superficie. Quindi magari se ci puoi dire qualcosa di quelle che Groff proprio ha teorizzato anche nella sua carriera da psichiatra come emergenze spirituali, e come le ha in qualche modo differenziate da in qualche modo dei quadri diagnostici più tipici. Grazie. E classici. Grazie di questa bellissima domanda. Mi chiami su un territorio che mi appassiona da tanto tempo, quello che Groff è stato per me un maestro da questo punto di vista, ma non è stato il primo, tra l'altro, a portare avanti questo discorso. Beh, sì, se noi conosciamo il libro rosso di Jung ha avuto una crisi personale pazzesca, la crisi di mezza età di Jung, e beh, Jung ha rischiato di finire in clinica psichiatrica, lui psichiatra, e poi con l'aiuto della sua tribù, come avviene in molte culture native, la tribù aiuta chi è in crisi personale, ha tirato fuori le budella, ha fatto quello che si fa, ha fatto in grande quello che si fa in piccolo in un lavoro di respirazione olotropica, ha tirato fuori la sua ombra, l'ha portata alla luce. L'olotropica si fa esattamente questo, ecco, in modo, in un setting controllato e protetto. Una, quella che Celny Tu si chiama, emergenza, Groff l'ha chiamata emergenza spirituale. C'è una storia c'è una storia delle emergenze spirituali, del trattamento delle emergenze spirituali. Beh, il primo è Jung, nel suo libro rosso viene fuori questa, tra l'altro il convegno SISC, c'è stato un bravissimo relatore che ha parlato del libro rosso la settimana, 10 giorni fa, quando è stato a Torino. L'altro grande è stato quello junghiano californiano, John Ware Perry, che era uno psichiatra junghiano che in California aveva aperto una clinica psichiatrica per curare le emergenze spirituali. Questo è durato in quei magici anni 70, in cui poi lui ovviamente era del 1914, era anche anziano. La teoria delle emergenze spirituali, comunque, classifica in qualche modo, già secondo Groff, intanto non tutte le psicosi sono emergenze spirituali. Alcune emergenze spirituali la psichiatria non è preparata a riconoscerle come psicosi e le tratta come psicosi e le psichiatrizza. Tu finisci per essere ospedalizzato se sei semplicemente in una crisi di trasformazione. Ecco, qual è una delle differenze base tra una psicosi e una emergenza spirituale? È che in una emergenza spirituale normalmente si è consapevoli che questo è un tuo processo, anche se doloroso, è un tuo processo interiore. Una psicosi proietti tutto all'esterno, la mafia che mi vuole uccidere, proietti tutto all'esterno, ecco, questa è la grande differenza. Quindi purtroppo la psichiatria soppressiva Poi io non sono contrario ai farmaci, ci sono c'è gente che magari si ammazza, per cui in certi casi i farmaci possono essere anche utili. Ecco, il problema è quando i farmaci sono soppressivi di un processo di trasformazione come quello di Jung, per dire che potrebbe essere un processo di cambiamento, di trasformazione della tua vita. Ecco, noi nel nostro piccolo facciamo un lavoro del genere con la respirazione olotropica, in modo protetto, limitato ad un weekend, ad un lavoro di un weekend. Però portiamo materiale nascosto, compresso nel nostro corpo, nelle nostre emozioni, e gli diamo la possibilità di esprimersi. Ecco. Nelle emergenze spirituali questo avviene naturalmente e può avvenire in modo in cui tu gestisci la tua vita e riesci ad andare a lavorare, occuparti dei figli, eccetera, oppure in certi casi può essere molto forte, molto violento, che in questo caso ha bisogno di assistenza, ha bisogno di uno spazio 24 ore al giorno di persone che ti assistono, preparate, in grado di aiutarti. Io ho una domanda piuttosto pratica e che si collega anche a quella che è stata appena fatta, che riguarda quelle che possono essere le controindicazioni nei casi in cui magari fare l'olotropica può essere problematico, cioè per gli psichedelici, per le sostanze tritamine, ad esempio quando sono psicosi represse o di famiglia, solitamente non è il caso di utilizzarle perché potrebbero emergere in maniera critica. Tutto qua. La respirazione olotropica non è una tecnica per tutti. Grazie per la domanda. Ci sono due tipi di controindicazioni, quelle fisiche, tipo problemi cardiovascolari, problematiche di distacco della retina, tutto ciò che è problematico a livello sportivo, agonistico. Consideriamo un'attività sportiva perché sia l'iperventilazione è una tecnica forte, sia... sia entrare in profondità in emozioni è una modalità comunque che alza la pressione. Ecco, se una persona che è già ipertesa non controllato ha problematiche cardiache, infatti io non prendo chiunque, prima faccio uno screening le persone che mi chiedono di venire ai miei seminari. E l'altro tipo di controindicazione sono quelle appunto di tipo psichiatrico. Allora, le psicosi latenti, effettivamente, normalmente io chiedo se ci sono dei passati psichiatrici, ecco. Ma, per esempio, so di una persona che tratta le persone bipolari, ma normalmente in olotropica, per esempio, essere bipolari è controindicato, perché può salire la parte maniacale, e allora se la parte maniacale si espande troppo diventa difficile gestire il quotidiano, mentre per esempio una depressione unipolare può essere utile l'olotropica. Ecco, anche qui ci sono, bisogna vedere. Ecco, non sono controindicati gli antidepressivi per fare olotropica, ma per esempio le benzodiazepine bisogna valutarlo un attimo, perché la benzodiazepine è soppressiva, l'olotropica è esattamente il lavoro contrario. Poi ultimamente mi è successo di prendere delle persone, però se ne è parlato prima, seguite dallo psicologo, prendono benzodiazepine e fanno olotropica, consapevoli che la benzodiazepina riduce un pochino gli effetti dell'olotropica. Comunque, vabbè, è un discorso complesso. L'olotropica, comunque, per sintetizzare, non è per tutti. Non c'è la bacchetta magica. Allora, per come lavoro io nel mio stile di lavoro, Quanto a lungo non te lo posso dire, non lo so. Come dicevo, non c'è la bacchetta magica. O una persona può venire e prova a vedere se gli funziona, se funziona, se gli può essere utile. I miei seminari durano invece un singolo seminario che io chiamo intensivo, perché il lavoro con una doppia respirazione e un doppio sittering, perché lo considero un lavoro più profondo che non una sola respirazione. Mentre uno c'è, fa un lavoro più profondo. Ecco, e dura dal venerdì sera alla domenica sera. Curiosiva capire, alcuni dei terapeuti storici, diciamo, di questo tipo di pratiche, Metzner, dice che è fondamentale comprendere che nel viaggio, cioè, diciamo, quello che è il viaggio in sé, la terapia in sé, dura 2, 4, 6 ore, tot tempo. È fondamentale comprendere che è importante dedicare altrettanto tempo sia alla fase preparatoria dell'esperienza sia alla fase di rielaborazione dell'esperienza, poi di quello che è accaduto. Certo, l'esperienza in sé è l'esperienza in sé, già nell'esperienza in sé, nel weekend di lavoro c'è già tutta una parte di integrazione, ma l'integrazione continua ancora nei giorni successivi. E la preparazione avviene già quando uno comincia a iscriversi, entrano in contatto con me, certo. E nel discorso dell'integrazione post-esperienza, alcuni degli esempi che fa Messner sono tipo, dice, nella fase di integrazione molti utilizzano anche strumenti che erano già, diciamo, di Jung, per dire, tipo disegnare, fare dei mandala, creare, cioè ci sono delle modalità specifiche che tu utilizzi per la fase di integrazione? Allora, la fase di integrazione ha due aspetti. Uno, le persone mi contattano e si lavora assieme. Due, io do comunque delle indicazioni, appunto, quelle più simili a quello che dicevi tu. Io dico, do tutta una serie di indicazioni, proprio un foglio scritto preparato per le cose da fare se vogliono lavorare da soli. Io resto comunque pronto nel caso ci sia bisogno. Ecco, dal disegnare, dallo scrivere, dal sapere con chi condividere e con chi non condividere quella che è stata l'esperienza. Perché Grof ci raccontava di una barzelletta, allora adesso ve la racconto, che mi è sempre piaciuta. Diceva, e voi sapete a chi non dovete raccontare quello che avete vissuto? E ci raccontava questa storia. C'è un sadhu indiano che dice, io sono Dio. E di fianco a lui, in una vignetta di fianco, c'è un pazzo in camicia di forza che dice, anch'io sono Dio. E il pazzo di camicia di forza dice al sadhu, ma perché tu sei saggio e rispettato, diciamo le stesse cose, e io sono in camicia di forza? E il sadhu gli risponde, perché io so con chi non devo parlare. Ecco, e quindi io do una serie di indicazioni, tra cui non parlare di certe di queste esperienze con chi ti dà del matto, ma parlarne con chi ti capisce, stare con chi ti vuole bene, disegnare, camminare nella natura, fare le cose che ti fanno bene, riposo, perché è anche stancante un lavoro olotropico. Che tra l'altro si ricollega a quello che hai detto prima sulla psichiatria. Cioè, sì, senso, no, certo. Non andare dal psichiatra sbagliato. Sì, per fortuna ci sono anche degli ottimi... Ci sono anche degli ottimi psichiatri, per fortuna, ecco, che possono aiutarci. Pochi, purtroppo troppo pochi. Beh, grazie. Se non ci sono altre domande, grazie. Chi vuole informare? Grazie. Sì. Grazie. Sì. Grazie. Sì. Grazie. Sì. Grazie.